Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Il riscaldamento globale mi ha fatto venire una curiosità. Voi direte, ciao Chiara, ciao Alberto. A me? No, no, non a me. È un ascoltatore nostro che ci ha mandato la domanda. Gli ha fatto venire una curiosità. Adesso sentiamo i titoli e poi speriamo di rispondergli. La fusione dei ghiacci dovuta all'innalzamento delle temperature globali potrebbe causare anche il rallentamento della rotazione terrestre? Riprende la rubrica delle domande impossibili 2013. Un collirio di 2000 anni fa trovato sul relitto di una nave affondata al largo della Toscana contiene principi attivi, usati anche nella medicina di oggi. Il cemento utilizzato per le volte dei fori romani veniva arricchito con le pietre vulcaniche del Vesuvio. Come mai? L'hanno appena scoperto i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Scopriamola, altrimenti scompare. Uno studio di architettura napoletano propone una grande copertura per Pompei e le opinioni si dividono. Il calore al posto del flusso di elettroni. Si potrà fare? L'innovazione potrebbe rivoluzionare tutta l'elettronica. Un gruppo di ricerca italiano segna un primo passo in questa direzione. Eccoci qua allora, prima però di rispondere alla domanda sul riscaldamento globale. Sì, io direi di ricordare come al solito i contatti attraverso i quali ci possono mandare tutte le domande impossibili. Ricominciamo l'edizione 2013 perché diciamo che abbiamo senza chiuso l'anno di continuità, sì, abbiamo chiuso l'anno con quella carrellata di domande del 2012, ora ripartiamo da zero. Allora, la mail mebius@radio24.it oppure Facebook Moebius Scienza e Moebius _ trattino basso, cioè online, per chi volesse raggiungerci via Twitter. Cosa faccio? Vado alla domanda? Sì, ricominciamo subito con la domanda di Roberto, sentiamola. Se il surriscaldamento globale finisse per sciogliere tutto il ghiaccio che si concentra attorno ai poli, questo potrebbe avere anche la conseguenza, oltre a tutto il resto, di rallentare la rotazione della Terra? Grazie mille. Ma santo, c'era adesso anche questo problema qua. Ce ne sono tanti legati ai cambiamenti climatici, vediamo. Anche questo che ruotiamo in modo diverso. Anzi, ci rallentiamo. Anzi, allora, a pezzetti, sì, con frenatine ogni tanto, magari a primavera. Che bello. Come su un autobus. Chi ci risponde, Alberto? Ci risponde Giuseppe Bianco del Centro di Geodesia Spaziale a Matera, Centro di Geodesia Spaziale dell'ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Ho detto tutto. Buonasera, Bianco. Buonasera a voi. Buonasera, cosa rispondiamo a Roberto? Rallenteremo o non rallenteremo? Beh, però prima cerchiamo di spiegare il perché dovrebbe avvenire, no? Sì, in realtà già si sta osservando una diminuzione netta del ghiaccio che è concentrato in buona parte sulle calotte polari, poi nei ghiacciai, soprattutto alle latitudini estreme, meridionali e settentrionali. Avviene perché lo scioglimento dei ghiacciai avviene perché c'è un aumento della temperatura media del pianeta. Ah, certo. Lei adesso ci sta spiegando, il riscaldamento globale produce questo scioglimento, certo. Sì, è uno scioglimento, noi tecnicamente, lo tenga presente, io non sono un geofisico, io sono un astronomo, ma sì, tecnicamente sì. Noi stiamo ancora uscendo dall'ultima glaciazione. Certo, no, ma io le chiedevo perché dovrebbe rallentare, poi dopo vediamo se rallenta, ma perché dovrebbe rallentare? Beh, c'è una teorema della fisica che è quella della conservazione del momento angolare. Ora non voglio andare in dettagli eccessivi, ma uno dovrebbe pensare a un ballerino o a un pattinatore che gira su se stesso, e l'effetto che si vede è che se il ballerino raccoglie le braccia verso il proprio corpo, la velocità di rotazione aumenta, mentre al contrario, se allarga le braccia, la velocità di rotazione diminuisce. Più o meno avviene la stessa cosa sulla Terra, perché ci sono vari effetti. Ecco, tenga presente che non è solo quello dello scioglimento dei ghiacci. Lo scioglimento dei ghiacci provoca la ridistribuzione di una grande parte, di una grande massa su tutto il pianeta. Questa massa si distribuisce in maniera non regolare, di questo dipende intanto dalla forma della Terra, e quindi dal campo gravitazionale della Terra, e quindi dal geoide, e dipende dalla rotazione della Terra. tutti noi sappiamo che la Terra è leggermente, questa è una cosa che venne dedotta inizialmente da Newton, leggermente schiacciata ai poli, un po' più larga all'equatore, proprio a causa della rotazione. Quindi c'è in un certo senso più massa all'equatore che al nord. E quindi l'acqua che continua a sciogliersi continua a raccogliersi maggiormente sulle fasce equatoriali, è in un certo modo assimilabile al ballerino che allarga le braccia, e quindi questo può in un certo senso, e noi lo stiamo già osservando, portare a un rallentamento della rotazione terrestre, che è un rallentamento piccolo. Un disequilibrio di pesi. Sì, è una ridistribuzione delle masse. Sì, la massa totale rimane la stessa. Ovviamente. Sì, la massa totale rimane la stessa, c'è una ridistribuzione delle masse che però è, come dire, modulata da tanti fenomeni, modulata da effetti di tipo secolare, effetti di tipo stagionale, eccetera. È una cosa molto complicata quella della dinamica, della geodinamica, appunto. Noi vediamo effetti incredibili perché noi per esempio misuriamo proprio la rotazione terrestre con grande precisione e si vede che la Terra sta rallentando oggi di circa, insomma, il rallentamento non è regolarissimo, ma noi perdiamo come velocità di rotazione, quindi il giorno in un certo senso si allunga di 1,4 millisecondi al secolo. E questo in generale, cioè indipendentemente dai ghiacci, questo... Questo è, non si può dire, cioè quello che è l'effetto netto che noi osserviamo. Che noi osserviamo buona adesso. Parte di questo e dipende dalla perdita, come anche quasi in un gergo tecnico si dice trasferimento di momento angolare dalla Terra alla Luna, dovuto alle maree, quindi all'attrito mareale, che le maree sono fenomeni che sono indotti appunto dall'attrazione lunisolare, queste provocano un attrito, per cui il sistema, come si dice, non è più conservativo, la Terra a un certo punto perde energia rotazionale e la Luna si allontana di 4 cm all'anno dalla Terra. Ma chissà, dovremmo preoccuparci, freniamo a un certo punto, ma... Allora, dobbiamo capire se è necessario preoccuparsi di questo possibile rallentamento della Terra dovuto al fatto che il ghiaccio, le acque, insomma, si distribuiscono diversamente sul nostro globo. E se rallentando ci possiamo anche ci fermare. Fermiamo. E qui con noi ancora Giuseppe Bianco del Centro di Geodesia Spaziale dell'ASI. Allora, che ci dice? Ci preoccupiamo sì o no? Io direi di no, perché noi oggi stiamo assistendo ad un'evoluzione che continua da milioni di anni e continuerà per milioni di anni. Considerando la massa totale oggi stimata del ghiaccio, circa 30 milioni di chilometri cubi di ghiaccio, e considerando la perdita netta di ghiaccio che noi determiniamo con dati di geodesia spaziale, quindi da missioni gravimetriche e misure di orbite di satelliti, noi vediamo appunto che la perdita netta è di circa 300 miliardi di tonnellate di acqua per anno, che causano un aumento all'incirca di un millimetro all'anno del livello medio del mare. Noi non abbiamo un modello deterministico che ci permetta di dire come sarà la Terra tra 100.000 anni. Certo. Ipotizzando un andamento lineare è possibile fare un conto rozzo, per cui il ghiaccio totale si dovrebbe fondere, mantenendo questo ritmo, tra circa 100.000 anni. E siccome noi oggi osserviamo già un rallentamento della Terra che perde 1,4 millisecondi per secolo in media, questo effetto aumenta e diminuisce, ripeto, ipotizzando un andamento lineare, noi possiamo dire che tra 100.000 anni gli effetti cumulati sulla Terra provocheranno un aumento della durata del giorno di 1,4 secondi, quindi il nostro giorno durerà un secondo e mezzo in più. Cioè, per l'effetto dello scioglimento e altri fattori potremmo avere questo aumento, però non è detto invece perché ci sono tanti altri variabili. Sì, per esempio c'è la meteorologia imprevedibile. Certo, potremmo ghiacciarci tutti oppure... Certamente. Sappiamo. Infatti. Diciamo che da qui a 100.000 anni insomma, abbiamo tempo anche a fare qualcosa, a prendere dei provvedimenti. Spero proprio di sì. Poi non ci sconvolgerà quel secondo in più di vita. No, sarà quello il problema. Senta. Abbiamo a che fare con queste cose da tanti anni, ce la caviamo abbastanza bene. Senta Bianco, approfittiamo del fatto che lei è un astronomo per commentare questa notizia, insomma, che è uscita in questi giorni. È stato osservato attorno alla stella Vega, che dista da noi 25 anni luce più o meno, una fascia di asteroidi, o meglio una seconda fascia di asteroidi che assomiglia un po' a quella che c'è nel nostro sistema solare tra Marte e Giove. Cioè già si sapeva che c'era un disco più o meno di materiale, insomma, che ruotava attorno alla stella più esterno. Adesso se ne è scoperto uno interno. Qui la notizia è nel fatto che lì in mezzo tra i due dischi potrebbero esserci dei pianeti, come avviene nel sistema solare. Un altro sistema solare, un altro certamente sistema stellare. Ormai questa è una è interessante che sia stato scoperto attorno a Vega, che è una stella brillantissima e relativamente vicina. La cosa interessante in questo caso è che si trovano sistemi simili, anche se con una scala differente, credo che la scala sia 1 a 10, a quella del nostro sistema solare, cioè una cintura interna in un certo senso calda di asteroidi, che è quella che noi abbiamo appunto tra Marte e Giove, e una cintura esterna, che nel caso del sistema solare è la cintura di Kuiper, più fredda, dalla quale proverrebbero altri corpi. È interessante perché questo, come dire, tranquillizza sul fatto che noi non siamo un unicum, il fatto che quello che avviene da noi non è un'eccezione, ma è piuttosto una regola che viene seguita nell'universo, il che ci fa in un certo senso pensare a noi stessi come essere un po' meno speciali rispetto a quello che si è creduto finora. Questo che è importante ridimensionarsi, e poi prima o poi li incontreremo, santo cielo. Non lavorano a nostro favore le distanze, la velocità della luce, che pure se è tanto grande su scale poi stellari diventa piccolo. Purtroppo le distanze e la velocità della luce non sono compatibili con le scale umane. Va bene, grazie Bianco, buonasera e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buonasera. Arrivederci. Ma io ci ho pensato, in fondo, tornando indietro nel tempo, c'era un sacco di polvere in più, basta pensare alle strade che erano di terra. Si guarda un mal di occhi che non puoi immaginare, pieni di impacchi dalla mattina alla sera. È presente quando ci si mette i cetrioli sugli occhi? Esatto, quindi non è sorprendente che se andiamo indietro di 2000 anni si trovino reperti di questo attenzione genere. Attenzione verso i colliri. Allora, stiamo parlando in realtà di un reperto che è datato più di 2000 anni. È una recente scoperta, nel senso che in realtà questo tubetto contenente queste pastiglie di cui adesso parleremo, che venivano utilizzate per uso oftalmico per gli occhi, sono state trovate in realtà quasi 30 anni fa, ma ora ci facciamo raccontare. Però solo adesso abbiamo saputo che probabilmente venivano utilizzate come una sorta di collirio. Da chi ce lo facciamo raccontare? Da chi l'ha studiato. E quindi è qui con noi stasera Gianna Giacchi. Buonasera. Buonasera. Lei è chimica della Sovrintendenza archeologica della Toscana e appunto ci potrà ben dire che cosa avete trovato dentro questo relitto. Ecco, forse ci introduca prima dove li avete trovati. Alla fine degli anni 90 è stato trovato nel bagaglio di questo relitto, il relitto chiamato del Pozzino dal nome della baia in cui è stato individuato, praticamente nel Golfo di Baratti sotto Populonia. È stato trovato questo bagaglio relativo che poteva essere in qualche modo abbinato all'attività di un medico. Non solo 136 piccoli contenitori cilindrici in legno di bosso, ma anche diverse pissidi, cioè contenitori, piccoli contenitori in stagno, erano tutti vicini, insieme a uno specillo e una campana per i salassi, tutti vicini a una serratura che doveva essere proprio quella della cassetta di legno che conteneva pronto questo soccorso. Bagaglio. Una specie di cassetta del pronto soccorso che era all'interno di questa nave. Diciamo di sì, o comunque più o meno. Che un medico forse a bordo si portava con sé. Esatto, aveva forse i suoi attrezzi, no, questo non lo sappiamo. Ma scusi, tutto questo armamentario è stato ritrovato e è rimasto lì sott'acqua, no, ma al di là del fatto che fosse sott'acqua, tirato fuori, nessuno ha guardato dentro? No, assolutamente sì. Ah. Anche perché subito al momento del ritrovamento sono cominciato, come sempre succede, tutte le caratterizzazioni di tipo chimico, chimico-fisico, eccetera, per individuare i materiali e per individuare il modo migliore per conservarli. Ah, ok. E già allora i risultati preliminari ci avevano indirizzato verso la presenza di questi in questa compresse che sono state ritrovate in una di questi contenitori di stagno, diciamo verso una composizione in cui il principio attivo era dato da questi due composti dello zinco, un carbonato e un idrossicarbonato. Cioè voi avete trovato, mi scusi, un tubetto ed è stato l'unico forse che era rimasto completamente intatto perché probabilmente si era sigillato. Sì. Voi siete riusciti ad aprirlo e lì avete trovato come se fossero delle compresse di quali dimensioni più o meno? Come un'aspirina? No, allora intanto sono compresse abbastanza rigide e hanno come dimensione un diametro di 4 centimetri circa e uno spessore di un centimetro circa. Quindi piatte, delle polpettine? Delle polpettine. ne abbiamo dei piccoli panini, come sì. l'origine del nome Colliria, anche se diciamo l'attribuzione completamente diciamo probabile non ci può essere. Noi verosimilmente li attribuiamo a un uso oftalmico per tutte quelle che sono i componenti che abbiamo trovato. Che avete trovato dentro, che sono principalmente zinco, diceva? Due carbonati di zinco, e sono circa l'80% delle stesse compresse. In più sono stati trovati amido, grassi di origine animale e vegetale, e fra questo molto probabilmente olio d'oliva, e fibre di lino. Questa è un'altra particolarità abbastanza curiosa, di queste piccole fibre di lino che sono sia all'interno che nella parte più superficiale della compressa, e che probabilmente funzionavano da aggregante per la stessa pasticca nel momento in cui veniva forse ammorbidita con l'aggiunta di un liquido e applicata sulla parte malata, diciamo come distesa sulla parte malata. Quindi proprio come se fosse un impacco. Con gli impacchi circolari che si vedono, che si mettono tipo oggi, tipo il cetriolo, insomma, certo. E la cosa interessante è che questi componenti, soprattutto lo zinco, è uno dei componenti principali anche dei moderni colliri. Questo vi ha fatto pensare? Diciamo che più dei moderni colliri, che poi attualmente per collirio intendiamo un prodotto liquido, sì, che certo, vero. Sì. Mettiamo a gocce nell'occhio, ci ha fatto pensare a quelle che sono i vari prodotti a base di zinco, come l'ossido di zinco che ritroviamo nelle pomate per uso dermatologico. È stata poi la consultazione dei testi antichi a farci vedere la somiglianza della ricetta, così come l'abbiamo interpretata, con quelle che erano formulate in antico. E a che periodo risalgono? Al secondo secolo avanti Cristo. Ah, quindi diciamo tra i Romani e gli Etruschi? Sì, anche se il materiale che trasportava il relitto sembra provenire dalla Grecia. Ora, questo può essere anche che un'ultima base di approdo sia stata quella del carico in un porto greco, ecco. Certo. Un'altra curiosità è che di questo tipo di collirio ne riferisce anche Plinio il Vecchio in uno dei suoi scritti. Sì. Le risulta? Diciamo che Plinio il Vecchio parla dell'utilizzo di questi composti di zinco anche per uso oftalmico. Non tanto di colliri, ecco, diciamo di medicamenti, per disturbi all'occhio. Quelli che sono le parti malate o più o meno della pelle, e quindi per uso dermatologico e anche per uso oftalmico. Bene, molto interessante. Riuscirete a sapere qualcosa di più? Ci dica. Se mi è consentito, appunto, dicevamo che i primi risultati si sono avuti al momento della scoperta di queste compresse. Sì. E il lavoro è uscito ora perché in anni più recenti abbiamo riaggiornato tutto quello che erano i risultati e la campagna analitica con le nuove strumentazioni che sono qui presso la sovrintendenza. E siamo riusciti a avere con noi la collaborazione di altri istituti come l'Università di Pisa e l'Università di Firenze, in modo da poter analizzare a 360 gradi tutta quella che era la componente che noi vedevamo e che vedevamo estremamente complessa e che non si poteva fermare solo alla parte inorganica. Bene, bene, in bocca al lupo allora Giacchi, buon lavoro. Grazie. Davvero. Buon lavoro, arrivederci. Grazie anche a voi, buonasera. Poco fa parlavamo di medicina romana, forse sì. Greca però è venuto fuori, sì, ti ricordi? Sì, o etrusca, insomma un incrocio, comunque di 2000 anni fa parlavamo. E noi quest'area qui non la molliamo in questa puntata. No, oggi facciamo la puntata dal sapore archeologico romano, sì. Perché è uscita un'altra ricerca di un altro nostro importante ente nazionale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha scoperto che cosa? Che il cemento che veniva utilizzato trovato il calcestruzzo che veniva utilizzato nella costruzione delle volte dei fori romani, in particolare mi sembra il foro di Traiano e il foro di Cesare, venivano realizzati con le lave e le rocce vulcaniche del Vesuvio, cioè sembrerebbero un po' costruite con le stesse tecniche di Pompei. Questa era una cosa che non tutti sapevano, gli esperti probabilmente sì, e quindi ci facciamo raccontare insomma cosa è venuto fuori ultimamente da Fabrizio Marra. Intanto buonasera Marra. Buonasera. Ecco, lei è ricercatore geologo dell'INGV e avete fatto questa ultima scoperta per cui appunto come mai si costruisse con queste tecniche, che si riproducesse un po' quelle che erano le tecnologie di costruzione di Pompei a Roma, non lo sapevamo, almeno io non lo sapevo. Perché l'elemento di sorpresa sarebbe il fatto che i materiali per costruire i fori romani, insomma, e le cose, gli edifici a Roma, si pensa che avrebbero dovuto arrivare dagli immediati dintorni, è questo il punto, Marra? Certamente sì, perché... Per evidenti problemi di trasporto? Sì, sì, senz'altro, perché anche Roma, come Napoli, come la Campania, abbonda di materiali vulcanici, anche se la cosa forse è meno nota, perché mentre il Vesuvio è un vulcano attivo, i vulcani dell'area romana sono quiescenti, sono estinti da parecchio tempo, però diciamo sono stati attivi fino a 35.000 anni fa e hanno provocato la deposizione di ingenti quantità di pomici, di scorie vulcaniche, che sono i materiali con cui i romani preferenzialmente facevano le malte, cioè usavano come inerte insieme alla calce per fare le malte. E questo perché? Perché hanno delle caratteristiche di leggerezza particolari forse? Hanno delle caratteristiche di buona reattività con la calce e poi sono materiali facilmente disgregabili da cui si ricavano queste delle sabbie granulari, insomma, e quindi così empiricamente, per esperienza e per averla a disposizione diciamo in grande quantità, evidentemente i romani hanno sviluppato questa tecnica, questa capacità di fare le malte con questi materiali. E diciamo la sorpresa è che per fare dei monumenti importanti come quelli dei fori a Roma, invece di usare solo materiali locali, abbiano utilizzato in prevalenza materiali importati. Come mai? Beh, perché sostanzialmente nel realizzare le volte c'è bisogno di alleggerire il più possibile diciamo il peso della struttura, proprio per evitare crolli, e quindi si sono resi conto che questa cosa poteva essere realizzata facilmente usando materiali più porosi, più leggeri, e questi materiali vulcanici molto porosi e molto leggeri abbondano nella zona di Pompei, mentre a Roma non ce ne sono molti, in particolare quelli che noi chiamiamo pomici, che sono i prodotti più porosi. Il vulcano più vicino a Roma non le ha mai prodotte. Questa tecnica di usare materiali leggeri è stata sviluppata evidentemente a Pompei perché lì c'erano i materiali diciamo a disposizione, e poi è stata importata la tecnica insieme ai materiali e probabilmente proprio alle manovalanze che realizzavano queste strutture. Ma d'altronde Pompei era un luogo di grande piacere per i romani, soprattutto i romani benestanti, quindi era un luogo che loro conoscevano molto bene e c'era un'esperienza architettonica, c'erano le ville più belle, insomma, quindi sapevano come funzionava questo materiale. Però senta, per portare... Come ci arrivava? Cioè una teoria di carri infinita. No, assolutamente. Via terra, no? No, il trasporto via terra è escluso, anche perché diciamo Pompei aveva un porto fluviale ed era collegato bene, intensamente, c'erano molti traffici con Pozzuoli, con Puteoli, l'antica Puteoli, che era sostanzialmente il porto di Roma, il vero porto commerciale di Roma, e aveva diciamo legami strettissimi poi con il porto di Ostia. Quindi Pompei, Pozzuoli, Pozzuoli, Ostia, da Ostia a Roma. E da Ostia poi? E da Ostia con le navi caudicarie, cioè sono delle chiatte trainate con dei cavi dai muli, e i carichi risalivano il fiume fino alla città. Navigava al Tevere? Il Tevere? Sì, Tevere, lungo il Tevere. E arrivavano a Roma. Cosa interessante è stato scoprire che Pompei, oltre che un luogo appunto di villeggiatura, come giustamente avete evidenziato, in realtà lo studio condotto in collaborazione con con la dottoressa D'Ambrosi, un'archeologa, ha dimostrato che c'erano fiorenti traffici commerciali, c'era un'attività commerciale a Pompei e si producevano laterizi, e ci sono testimonianze di scambi commerciali di laterizi tra Roma e Pompei, quindi è probabile che questi altri materiali da costruzione andassero insieme con questi materiali qui. Ho capito. Ma senta Fabrizio Mana, per capire se una pomice arriva da Pompei oppure dai dintorni romani, insomma, a voi che ve ne intendete, basta guardarla. Per un geologo, infatti, diciamo, poi la novità di questo lavoro è proprio il fatto che abbia usato un metodo nuovo e quindi diciamo è questo che ha permesso di accertare senza dubbio la provenienza dalla Campania anziché da Roma. Se no lo si sarebbe capito prima. Si sarebbe capito. Sono analisi che si basano sulla determinazione delle abbondanze di elementi in tracce, cioè elementi terre, elementi rari, e sui rapporti di questi elementi, e diciamo le moderne tecniche di laboratorio adesso permettono di fare queste determinazioni molto precise su quantità di materiale piccolissimo, mezzo grammo, e quindi adesso è possibile applicare questo metodo. Fino a una decina di anni fa non era possibile. Okay. Abbiamo sviluppato proprio un metodo molto semplice con dei diagrammi e di identificazione delle varie rocce vulcaniche, delle varie componenti. Anche la colorazione forse è differente tra quelle laziali, come dire, e quelle campane? Beh, la colorazione varia, però varia, diciamo, nell'ambito di quelle laziali come nell'ambito di quelle campane. Certo. Quindi, diciamo, può essere indicativa, ma non è diagnostica in maniera certa. Però a un certo momento a qualcuno di voi vi sarà passato per la testa questo sospetto per fare le analisi, oppure è stato un caso? Così, tanto per parlare di come funziona la ricerca. A un certo momento uno di voi ha detto: ma non è che questa roba arriverà da Pompei, no? Sì, diciamo che ci fossero in particolare dei materiali alloctoni. Era stato notato già all'inizio del secolo dagli archeologi e dai geologi, e avevano ipotizzato che queste sono delle scorie di lava, sono delle pomici nere molto molto porose, e avevano notato effettivamente che Vitruvio si riferiva di una pumex pompeiana, e avevano ipotizzato che potesse essere questa, però non c'era la prova. Non c'era la prova, ma in più quello che noi invece abbiamo scoperto poi guardando in sezione sottile al microscopio queste malte è che non c'era solo questa evidente, queste grosse pomici nere, ma c'era una grande quantità di pomici bianche piccole, molto leggere, molto porose, che servivano proprio ad alleggerire ulteriormente la malta. Questa tecnica quindi era molto specialistica, diciamo, e queste pomici bianche a Roma sono scarse, quindi abbiamo fatto delle analisi per cercare di avete capito come andava. E quindi venivano insieme a queste pomici più grandi che sono proprio esclusive di Pompei. Beh, è interessante capire come dai materiali si possa poi ricostruire le vie commerciali, i mercati, come venivano utilizzate. Certo. Veramente interessante. La ringrazio davvero, Marra. Grazie a voi. Arrivederci e buon lavoro. Grazie e buonasera. Dunque, se le pomici arrivavano a Roma, vuol dire che là c'era Pompei, no? Assolutamente sì. Ecco, il problema è se riusciremo ad averla ancora nei prossimi anni. Perché... dati soprattutto gli ultimi, incidenti non felici. Sì, il 2012 è stato fantastico per Pompei. Abbiamo in linea Aldo Capasso. Buonasera, Capasso. Buonasera. Architetto, lei ha uno studio a Napoli, ha fatto un... Io sì, insegno all'università, alla Federico II. Alla Federico II anche, e lei è, come dire, autore di una proposta che sta sollevando commenti di tutti i generi, cioè copriamola Pompei, con che cosa? Non con dei teloni, immagino. No, vabbè, insomma... Con una grande cupola, no, non è una cupola, è una struttura complessa, membrana, che io... ho alluso ai vecchi velari che i romani coprivano in pratica gli anfiteatri e teatri, quindi mi sono un po' riferito a quelle logiche, solo che l'ho estesa in una dimensione un po' più ampia, nello spirito di cercare di capire in che modo, in che misura era possibile preservare un pezzo della nostra storia, la storia, diciamo, del mondo. Che se ne sta andando, quindi, cioè, non c'è dubbio che se sta così all'aperto con la pioggia. Le alternative non sono molte, insomma. Le alternative coprire una per volta i vari edifici, che sarebbe, diciamo, abbastanza complesso e anche abbastanza episodico, e comunque non si risolve totalmente il problema. Certamente io non sono un esperto archeologo, io tento di indicare una possibile soluzione oggi con le nuove tecnologie è possibile realizzare con queste membrane leggere, ovviamente con il supporto metallico adeguato, e fare queste grandi campate laddove non è possibile intervenire all'interno degli scavi, anche se a mio avviso attraverso sondaggi particolari è possibile individuare delle zone, appoggiare dei piloni senza toccare le vecchie strutture. Può benissimo ampliarsi, avere campate uniche, ne abbiamo discusso anche con il mio collega e amico Massimo Majovieschi, che tra l'altro diciamo un grande strutturista a livello mondiale. Cioè questa copertura non avrebbe piloni ovunque in mezzo? È possibile non avere piloni all'interno. Cioè sarebbe, che ovviamente diventa un po' più complesso. Se è possibile intervenire anche agli interni di questi piloni, all'interno dello spazio si possono ridurre le campate, ma insomma queste bisognerebbe fare uno studio di fattibilità, sia chiaro, non è che questa è un'indicazione di massima, con tutti gli aspetti positivi e negativi della questione dell'impatto ambientale, tutta una serie di questioni che vanno valutate, quindi certo non è una soluzione, come dire, che risolve tutti i problemi. Per farci capire meglio, scusi, la proposta che lei fa di queste campate, intanto quanto sarebbero alte e comunque rimarrebbe aperto ai lati? Sì, sempre per la ventilazione, per tutto, no? È solo, diciamo, io lo chiamo una protezione, come erano i vecchi velari romani, erano di protezione, non erano di chiusura, proprio per lasciare la ventilazione e tutto. Dunque, l'altezza praticamente deve superare gli edifici più alti di Pompei, diciamo sono una ventina di metri. Lo spessore della struttura non è variabile, perché dipende un po' dalle pendenze. Quella è una struttura, è una tensostruttura sostanzialmente per il controllo delle acque, quindi tra l'altro questa copertura prevederebbe anche l'uso del fotovoltaico, il controllo e l'utilizzo e il recupero delle acque pluviali, quindi avrebbe anche altri aspetti. Altri aspetti. Insomma, lei però sostanzialmente, Capasso, non è che dice senz'altro si paga un prezzo, il problema è che dall'altra parte ci perdiamo la città e con questa cosa, con questa soluzione probabilmente invece fermiamo il degrado. Certo. Non si discute su questa questione. Ovviamente sono un po' gli archeologi che devono poi decidere. Io come tecnologo ho individuato questa possibilità, che poi tra l'altro sono le grandi coperture, non è che me le sono inventate, è un po' nella storia, da Fuller che voleva coprire Manhattan, quindi insomma ci sono delle indicazioni. No, certo, però ripeto, oggi con le tecnologie più avanzate, con queste membrane sottili possibili, insomma si può la cosa è molto più praticabile. Tu cosa ne pensi? Secondo me a naso è una cosa buona. No, stiamo parlando con la mia collega. No, a naso sì, poi credo visivamente penso che abbia studiato una cosa piacevole, no? Certo, sì, ci sono disegni. Comunque andando al nostro sito www.moebiusonline.eu, ascoltatori e ascoltatrici, troverete le indicazioni per andare a vedere sul sito dell'architetto come è fatta la cupola. Grazie Capasso. Grazie a voi, arrivederci. Francesco Giazzotto, buonasera. Buonasera. Che cosa fa lei nella vita? È un ricercatore, so, eh? Sì, sono ricercatore al NEST, Istituto di Nanoscienza, il CNR a Pisa. A Pisa. E ha avuto insieme a una sua collaboratrice, no? Che, come si chiama? Non è italiana? No, è spagnola, si chiama Maria José Martínez Pérez. Va bene, in coppia avete fatto una ricerca che è arrivata sulle pagine di Nature, che noi ogni volta che dobbiamo ricordare è una delle riviste più autorevoli. Storicamente Nature è una rivista che è cominciato circa 150 anni fa, se non ricordo male. Insomma, esatto, sì, più o meno. Sì. E che ha un tasso, anche glielo auguro, di Nobel che hanno presentato su Nature il proprio articolo, per il quale poi hanno ricevuto il premio, molto elevato, elevatissimo. Senta, però, allora, vediamo, abbiamo un'impresa un po' difficile, d'accordo? Non è banale spiegare che cosa avete fatto, proviamo a farlo. La notizia in sintesi, mi dica se sbaglio, io le do solo i primi due, come dire, i titoli di apertura. Dalla vostra attività di ricerca viene fuori, è un primo passo, però ci sono, come dire, interessanti prospettive perché con altri due o tre si possa arrivare su a uno scenario, e beh, insomma, certamente suggestivo e molto strano, e cioè la possibilità di avere nei dispositivi elettronici più diversi, insomma, che oggi attualmente utilizziamo, per esempio i computer, insomma, in questo momento ne ho davanti tre qua in studio, sostituire a quello che è il vettore delle informazioni, insomma è un flusso elettronico, un flusso di elettroni, sostituire un'altra cosa che noi conosciamo molto bene, che è il calore, il flusso di calore. Questa cosa detta così sembra completamente impossibile, insomma, non si riesce a capire in che modo, perché ci vengono in mente le caldaie, no? Ci vengono in mente il riscaldamento. Sì, certo. Ecco. Allora, sì. Proviamo a entrarci dentro. Più che sostituire, direi combinare. Combinare, sì. Non cioè, escludere l'altro. Affiancare. No, combinare i due effetti, affiancare, e magari anche proprietà magnetiche, come... Certo. Che si usa per esempio attualmente le memorie magnetiche, quindi i tre effetti, cioè effetto magnetico, effetto la carica, effetto il calore. Ecco, e quindi sarebbe probabilmente un grosso ampliamento di possibilità, ma questo significa che in qualche modo, mentre ci è abbastanza chiaro, non dico che sia comprensibilissimo in termini molto precisi e tecnici, certo, ma che noi riusciamo a imbrigliare, insomma, l'elettricità in certo. circuiti, infine, con il calore proprio non riusciamo a capire come sia possibile. Perché tra l'altro c'è questa differenza tra queste due forme di energia? Beh, diciamo perché la carica fluisce sostanzialmente all'interno di un conduttore, quindi è necessario un conduttore per assicurare il passaggio di elettroni. Sì. E quindi noi sappiamo misurare una carica, abbiamo dei misuratori di carica che sono gli ammetri, gli amperometri, volgarmente chiamati amperometri. Mentre per il calore, voglio dire, il calore può essere trasportato anche attraverso materiali isolanti, attraverso in varie forme, in maniera radiativa, in maniera convettiva, quindi ci sono varie forme di trasporto di calore, attraverso radiazione elettromagnetica anche, quindi la cosa complicata è che non abbiamo l'equivalente di un misuratore del calore come si ha per la carica, cioè non esiste l'ammetro per il calore. Quindi noi non abbiamo un misuratore di uno strumento che ci permette di misurare quanto calore sta fluendo. Sì. Ciò che possiamo fare è misurare una osservabile che è direttamente collegata al calore, che tipicamente la cosa più intuitiva per tutti è proprio la temperatura. La temperatura. Lei dice non riusciamo a misurare il flusso, misuriamo un effetto. Esatto, un effetto del trasporto del calore, che è proprio una variazione di temperatura tipicamente. Quindi noi sappiamo fare termometria, usiamo i termometri che tutti conoscono per misurare le temperature degli ambienti, la temperatura corporea, insomma i termometri sono applicati nelle più disparate applicazioni in generale. Sì, sì, sì. E mi scusi, c'è un paradigma fondamentale, diciamo, della scienza che dice se misuro allora posso usare le, no? Se non riesco a misurare non riesco a utilizzare. Non lo so se questo fino a che punto è vero questa cosa, cioè in realtà noi appunto nel campo del calore si misura un osservabile legato al calore, quindi è una misura indiretta. Indiretta, diciamo. Quindi, diciamo. Quindi potremmo dire che in generale se noi riusciamo a avere informazioni anche indirette, qualcosa combiniamo. Noi diciamo in questi esperimenti misuriamo al solito un osservabile che è legato al calore, cioè la temperatura. E soprattutto la cosa interessante è che misuriamo delle proprietà che fino adesso erano state solo predette per il calore in opportuni sistemi. Perché qui il problema è, cioè l'opportunità sarebbe riuscire a utilizzare il calore come qualcosa che trasporta delle informazioni, come in un circuito di un computer avviene con l'elettricità. Per esempio, cioè in generale il calore, essendo una manifestazione di energia, non è così dissennato che possa trasportare un'informazione. Il punto è di essere in grado di manipolare questo trasporto di calore, che è generalmente molto difficile. Diciamo, quello che noi siamo riusciti a fare è manipolare il flusso di calore con piccolissimi campi magnetici. Quindi avere una manopola, che è il campo magnetico, che ci permette di controllare il flusso di calore in nanocircuiti superconduttivi. Potrebbero generare delle nuove circuiterie basate appunto sul calore e controllate tramite minuscoli campi magnetici. Questo potrebbe darci dei vantaggi significativi, però noi ne abbiamo parlato spesso anche in trasmissioni in più occasioni. Sappiamo che oggi come oggi il calore è un problema invece dei circuiti elettronici, perché diventano sempre più potenti e più piccoli e il calore che si sviluppa per il loro funzionamento va a inficiare il funzionamento stesso. Ma qui di che calore parliamo? Parliamo sostanzialmente di uno stesso tipo di calore, il calore è volgarmente sempre lo stesso, la grossa differenza è che probabilmente lei e le persone si riferiscono ai circuiti attuali di cui tutti dispongono che operano a temperatura ambiente. I circuiti a cui mi riferisco io sono circuiti sempre in circuiti a stato solido, in materia a stato solido, però sono circuiti superconduttivi freddi. Freddi. Sono circuiti che tipicamente limitano in maniera drastica la dissipazione. Quindi all'interno di questi sistemi, che però devono essere chiaramente raffreddati per poter operare, può esistere sempre questo trasporto di calore che però appunto è ordine di grandezza inferiore rispetto alle dissipazioni che si hanno a Molto sotto, quando si parla di superconduzione si parla assolutamente di ordine di grandezza inferiore, quasi zero assoluto. Ecco, però ci spieghi una cosa, un altro tema che noi abbiamo trattato spesso in onda è quello dell'acceleratore dell'LHC di Ginevra, e lì noi sappiamo che c'è un anello intero che viene pieno di superconduttori che viene lentamente, ci vuole circa 20 giorni. Sono magneti superconduttori. Magneti superconduttori, e viene portato a temperature molto basse, ma diventa un ambiente, come dire, impraticabile. Qui noi, impraticabile dal punto di vista di una presenza umana, qui noi parliamo di superconduzione, ma che però sarebbe, per esempio, dentro un nostro portatile. Esattamente, potrebbe essere una banale scheda. Scheda di vetroresina, di quelle che si usano tipo le schede madri dei computer. Noi normalmente facciamo questo, depositiamo, cioè costruiamo i nostri dispositivi su substrati di silicio. Questi substrati di silicio poi vengono raffreddati a temperature ben al di sotto della temperatura dell'elio liquido, quindi si tratterebbe di avere dei circuiti elettronici raffreddati con dei piccoli frigoriferi e integrati all'interno, diciamo, di un'elettronica. Quando e lei poi dice quello che noi facciamo, ecco. Quando lei dice piccoli frigoriferi, vuol dire veramente piccoli, cioè qualcosa, no? Sì, della dimensione, diciamo, di un desktop. Questo potrebbe essere il futuro prossimo, cioè un frigorifero all'interno del desktop che raffredda il cuore. Ah, okay. Che è il cuore pulsante, la CPU del computer, e però tutto il resto poi è tutto isolato e quindi tutto il resto poi è a temperatura ambiente, tranne che l'elettronica che è basata su questi concetti. Quindi per via questo è già di... stato fatto, questo già anni fa, si opera già con queste circuiterie qua, in certe applicazioni. Quindi non sarebbe tanto un problema tecnologico per il semplice fatto che abbiamo delle dimensioni estremamente ridotte. Sì, diciamo, non sarebbe un problema tecnologico, sarebbe più che altro un problema di costo, perché attualmente, perché fare chiaramente un frigorifero che raffredda già a temperature dell'elio liquido o al di sotto è una cosa che è già costosa in laboratorio, quindi, ma al solito, cioè queste cose qui se cominciassero a divenire di grossissima diffusione, scendono i costi, si abbatterebbero in maniera drastica. Concludiamo su un'ultima cosa, che tipo di... vantaggi si potrebbero avere, che cosa si aggiunge, che scenari si possono aprire? Forse non avete ancora ben consapevolezza di questo, oppure sì? Diciamo, ogni qualvolta si ha la possibilità di aggiungere il controllo su una variabile che prima, diciamo, era apparentemente incontrollabile, in questo caso appunto il calore, questo è uno specifico. È chiaro che si aprono in linea di principio grosse delle possibilità in più che prima non si avevano. Quindi, diciamo, se noi pensassimo di combinare il trasporto di informazione legato alla carica e anche alle proprietà magnetiche dei materiali, oltre aggiungere questo l'aspetto dell'energia, vuol dire che in qualche maniera completeremmo. Lei dice ogni volta che nella ricerca, nella scienza si è presentata la possibilità di governare una variabile, si sono aperti dei mondi interi, insomma. Certo. Sì, che magari all'inizio non è così banale, perché purtroppo uno tende a concentrarsi sulla problematica in se stesso, però magari se si sofferma e se ha sufficiente tempo per metabolizzare, ma anche magari altre persone che cominciano a vedere questi effetti, cioè tipicamente questi effetti stimolano altre idee legate a questa, e quindi magari tipicamente succede questo, ecco. Francesco Giazzotto, grazie e buon lavoro nel proseguo della vostra ricerca. È stato un piacere, grazie tanto. Arrivederci. Arrivederci. Il tempo che ci era concesso è giunto al termine. Con questa prosa aulica vi rimandiamo a quanto vi racconteremo qui a Möbius fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.